gente che saluta solo con i guanti. Qua non si può tacere, deve andare avanti. Provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti. Eccoci qua. Buonasera a tutti e benvenuti alle buonanotte di allineamenti. Qui è Gas che vi parla e come sempre vi auguro una buona domenica. La domenica che è sempre uno spartiacque. Cosa è successo settimana scorsa? Cosa succederà questa settimana? Qual è la cosa più eclatante che è capitata nelle vostre vite? Io oggi volevo parlarvi di cose importanti del mio lavoro, della mia vita, delle cose, ma... Poi bisogna pensare anche un po' a quello che succede intorno a noi, no? Perché tu puoi pensare a concentrarti tutto il tempo su quello che vuoi, su chi sei, su chi vuoi essere, su quello che fai giusto o sbagliato, ma se non reagisci anche a quello che c'è intorno a te, probabilmente stai camminando in una strada a senso unico, con a fondo cieco. E invece se riesci a relazionarti con il mondo aperto attorno a te, probabilmente sei in un ecosistema, in una piattaforma, in qualcosa che non sai mai dove può andare ed evolversi. E quindi oggi credo che sia molto più importante parlare di quello che succede a Como, quindi allargando un pochino lo spettro della mia persona e vedere cosa succederà e cosa è successo. E cosa è successo? In questa settimana la notizia più sconvolgente secondo me è una. Non so voi se l'avete letta oppure no, ma Wow Festival quest'anno non si farà più. E questo è un fatto. Ed è il fatto della settimana. E quello che succederà lo vedremo soltanto quest'estate, ovvero quello che non succederà quando quei giorni di fine giugno, inizio luglio, non sapremo che cosa fare qua a Como. E saremo qua a dire. Wow era wow, forse. Allora io, per parlare di questo argomento, ho deciso di farlo, di portarvi una persona che può parlare meglio di me, no? E quindi adesso vi lascio a una canzone e poi lascio la parola a lui. Naturalmente è una sorpresa, dovete ascoltare tutta la canzone e aspettarci. A tra poco. Try to do what those ladies tell us. Get shot down cause you're overzealous. Play hard to get, females get jealous. Okay, smarty, go to a party. Girls are scantily clad, are showing body. A chick walks by, you wish you could sex her, but you're standing on the wall like you was Poindexter. Next day's function, high class luncheon. Food is served and you're stone cold munching. Music comes on, people start to dance, but then you ate so much you nearly split your pants. A girl starts walking, guys start gawking. Sits down next to you and starts talking. Says she wanna dance cause she likes to groove. Come on, fatso, and just bust the move. Inclination is to become a monk and leave the situation, but every dark tunnel has a lighter hope, so don't hang yourself with a celibate rope. New movie showing, so you're going, could care less about the five you're blowing. Theater gets dark just to start the show, then you spot a fine woman sitting in your row. She's dressed in yellow, she says hello, come sit next to me, you fine fellow. You run over there without a second to lose, and what comes next? Hey, bust the move. Something to prove, so don't just stand there, bust the move. If you want it, you got it. You want it. brother Larry. In 5 days from now, he's gonna marry. He's hoping you can make it there if you can, cause in the ceremony, you'll be the best man. You say neato, check your libido, and roll to the church in your new tuxedo. The bride walks down just to start the wedding, and there's one more girl you won't be getting. So you start thinking, then you start clicking. A bridemaid looks and thinks that you're winking. She thinks you're kinda cute, so she winks back, and now you're feeling really firm, cause the girl is stacked. Reception's jumping, bass is pumping. Look at the girl and your heart starts stumping. Says she wanna dance to a different groove. Now you don't want to do G-Bust the move. Siamo rientrati, io sono Taz, l'ospite segreto annunciato da Gas prima. E innanzitutto buona domenica a tutti, questa è stata diciamo una settimana impegnativa direi, ricca di emozioni, di polemiche, però diciamo è stata viva. Sono qui a raccontarvi o a non raccontarvi di cosa ci sarà o di cosa non ci sarà quest'estate, ma senza entrare troppo nel merito, questa settimana abbiamo annunciato un po' la fine di Wow con molta amarezza in bocca, ma è una cosa che andava fatta, la fine di un ciclo. Io spero sempre che ci sarà un altro ciclo, quindi che un'altra generazione si metta un po' in gioco, no? Che possa esporsi, che possa essere intraprendente per dare qualcosa a questa città, soprattutto delle opportunità. Quindi delle opportunità che arrivino un po' dal basso, no? Visto che ormai dall'alto non arriva più niente se non... cosa cazzo? Se non tardi con delle micro performance da 30 minuti e la scenografia dovrà essere la città. Tutto questo perché non hanno un palco certificato, ovviamente. E vabbè, come ripeto anche qua, questa gestione veramente amatoriale della cultura comasca, perché la musica, ricordiamoci, è cultura. Questa cosa io continuo a ribadirla, perché ogni volta che mi trovo a parlare con un'istituzione sembra quasi che la musica non sia una valorizzazione del patrimonio culturale italiano, e non invece la musica è cultura, è fonte di aggregazione, è fonte di emozioni. Quindi viva la musica, viva chi promuove la musica tra le mille difficoltà, dalle agenzie di booking alla SIAE, a tutte queste problematiche. Ma l'urlo un po' che deve venire è: non molliamo, ragazzi, non molliamo un cazzo, davvero. Noi l'abbiamo fatto, però diciamo la voglia è dire: dai ragazzi, su, che ci sia un Wow 2, un Wow 3, un Wow 5 per Como, perché è davvero un peccato. Quindi ci vuole un sacco di coraggio, quindi quello l'urlo che voglio lanciare è: ragazzi, abbiate coraggio nella vita, esponetevi, millantate. Molte volte all'inizio di tutti i progetti c'è la paura di buttarsi in qualcosa che non si sa se poi si riesce a fare veramente, però ho scoperto che buttateci, una volta che la barca va, lasciala andare. E quindi cosa possiamo dire d'altro per chiudere questa domenica di allineamenti? Vi lascio una buona notte, sogni d'oro, e continuate a sognare. Continuiamo a sognare. Gente che saluta solo con i guanti, qua non si può tacere, deve andare avanti, provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti.